in mezzo c'è il pandemonio, cioè tutte le produzioni del Torrione di Ferrara, il Bravo Caffè, della Cantina Ventivoglio di Bologna, cose al Museo della Musica, anche connesse con il ricordo della figura di Steve Grossman. Un progetto didattico come tutti gli anni è orientato agli aspetti formativi e in particolare a una connessione con il Dipartimento Jazz del Conservatorio Martini di Bologna. Qualcosa anche nell'ambito della città metropolitana, Ferrara l'ho già nominata, ma ancora resta parte del nostro Modena, e anche Forlì, che voleva farlo contemporaneamente al Bologna Jazz Festival, la sua, diciamo, rassegna, ma per ragioni appunto di logistica e sempre di complicazioni connesse con la situazione che stiamo vivendo noi operatori culturali, quindi grandi limitazioni, grandi problematiche, e l'ha dovuto posticipare in dicembre, e quindi fungerà sostanzialmente da coda, diciamo, di questa edizione maledetta e speriamo comunque benedetta dalla buona musica del Bologna Jazz Festival. Sì, tra l'altro poi vedo che la struttura comunque resta, quindi una buona volontà, nonostante la fatica, mantenere una continuità, le idee, mantenere gli stessi progetti, fra l'altro, con musicisti che danno possibilità, talento, qualità allo stesso modo, certamente più vicini a noi. Quindi misure di sicurezza e tutto il bene possibile anche per questa edizione, nonostante tutto. Sì, assolutamente. Diciamo che fare un festival in un autunno come questo, dove appunto le nubi sono all'orizzonte, è una dimostrazione di forza e di forza di volontà, ma anche di forza di struttura, insomma. Quindi siamo ben felici di esserci e saremo felicissimi di riuscire a concludere questo ciclo concertistico, quantomeno per poi vedere quali saranno gli eventuali sviluppi in futuro. Si parla già di una nuova circuitazione tra stati europei, già in gran parte c'è, ma con musicisti americani o brasiliani a partire dall'estate, ma come avrete capito tutti le incognite sono tali che in questo momento, purtroppo, e questo non è un bel lavorare, si deve lavorare molto sotto. Non è un caso che usciamo oggi, a due settimane poco più dall'inizio del festival, con una conferenza stampa e con il lancio di tutto il programma, proprio perché già da qui alla settimana scorsa qualcosa che era previsto, sebbene in spazi più piccoli, ha subito variazioni. Per esempio, non so, a Ferrara doveva venire Joelle Andre, che sarebbe stata coinvolta anche nel progetto didattico, è in piena il de France, in piena area di Parigi, e non se l'è sentita di rischiare un viaggio probabilmente improponibile o addirittura a breve impossibile. Certo. Cioè, intanto buon festival, io ti ringrazio e a presto. Grazie a te, William, e grazie a tutti gli ascoltatori di Radio Città Fucina.